Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Bentornati, bentornati su Restoradio Convento. Come ci piace sempre dire, il nostro spazio, la nostra radio non ha limiti numerici, motivazionali e come dire, di tipologia, diciamo così, perché possiamo ospitare dei gruppi, possiamo ospitare dei singoli, possiamo ospitare dei festeggiati, possiamo ospitare persone che semplicemente hanno voglia di passare un sabato sera in coppia e scelgono il convento di Lunato, ma indipendentemente da questo decidono di passare una serata appunto di coppia, divertendosi e andando a ballare, come è il caso di questi due ragazzi che abbiamo ai nostri microfoni e che quindi andiamo a conoscere con molto molto piacere. Allora ragazzi, benvenuti intanto. Grazie, benvenuto anche a te, visto che lavori tutta la notte. Grazie mille. C'è il nostro uomo, ma è anche accompagnato da una gentil donzella che copre fisicamente, però c'è, giusto? Fate sentire. Sì, no, viene anche lei, sì, ce l'avviciniamo, ecco, così almeno. No, guarda, c'è anche il suo microfono, quindi poi... No, era per farla salutare, non ho sentito la sua voce, quindi... Ciao, mi chiamo Monica. Oh, benvenuta Monica, mentre tu sei? Massimiliano. Massimiliano, ciao. Massimiliano, benvenuto anche a te. Allora ragazzi, da dove venite? Allora, noi veniamo da Brescia, città, e siamo venuti qui perché ci hanno detto che ci si diverte e si balla un casino. Ah, e quindi a voi piace ballare? O assolutamente siete... sì. Ah, sì. Bene, bene, bene, allora siete nel posto giusto. Come dire, inutile chiedere, però me lo, come dire, il ruolo me lo impone. Vedendo un uomo e una donna vicini, siete una coppia, amici, cosa siete? Siamo praticamente una coppia di amanti, quindi... Una coppia di amanti, quindi come dire, in incognito. Siamo in incognito, infatti. Avete dato radio. Nomi falsi? Nomi falsi, esatto, infatti okay. Io sono Pippo Zipalà e lei invece Mastro Luzza Calogera, quindi proprio... Oh, wow, bello, bello, bello, bene. E... come dire, come riuscite a conciliare questa vostra fuga d'amore con il vostro rapporto quotidiano, diciamo così, ad esempio, anche solo per capire come si gestisce nel 2019, cosa avete detto ai vostri rispettivi compagni per questa serata? Cioè, dove siete per loro? Niente, io gli ho detto che vado a prendere sigarette. Ok, e che ora sei partito? Praticamente alle 9, alle 9. Perfetto, quindi diciamo che hai trovato un po' di traffico. Esatto. Mentre tu? Mentre tu, Monica? E sono uscita a fare la spesa, però. La spesa? Cioè, però, sì, però quello supermercato che... È il Carrefour 24 ore, esatto. Ad esempio, quindi ci sta. E cosa hai fatto? La spesa per tutto il 2020 praticamente, perché sei ancora, sei anche tu, sei fuori dalle 9? Sì, perché mi hanno dato buoni spesa al lavoro, perché dovevo... Ah, consumarli. Insomma, la spesa non ti interessava, mi sembra di capire. Ah, e caso strano, ho scelto proprio questa serata per consumarli. Esatto. E cosa fate nella vita di bello? Guarda, io sono un vetrinista, quindi allestisco le vetrine. Ah, dei bello. Negozi. Sì, sì. Allestisci, sì, le vetrine dei negozi. Esatto. Raccontaci un po' come funziona, cioè su, tra virgolette, commissione o dai anche un'idea creativa? Tutte e due, noi dico, io e Massimiliano, quindi siamo in due, okay. Io e Massimiliano col mio alter ego andiamo dal negozio, facciamo il sopralluogo quando ci chiamano, prendiamo le misure della vetrina e poi niente, in base alla vetrina, se è di abbigliamento, di altri settori, oreficeria eccetera, si può poi montare la vetrina, portargli i manichini oppure no, e fare l'allestimento. E sono molto contenti, finché mi pagano vuol dire che va bene. Eh certo, vuol dire, pagano, vuol quando dire, lo pagano vuol dire che non gli è piaciuto. Vuol dire che funziona, però immagino non usi materiali tuoi. Cioè nel senso... Sì, uso anche materiali miei, faccio anche delle scenografie, degli allestimenti, okay. Una personalizzazione, così alla fine divento un po'... No, pensavo che usassi comunque materiali già predeterminati. Sì, oggetti che comunque ti dava chiaramente il punto vendita. Perché oddio, penso a un abbigliamento, sì. È chiaro che serve un manichino, è chiaro che servono degli abiti, è ovvio che, sì, che te li debbano fornire loro. Hai ragione, manichini e abiti me li danno loro e quindi uso i suoi, però molte volte c'è bisogno di mettere la scenografia, un aspetto scenografico, emozionale, allora glielo porto io. Ok, dettaglio non importante ma proprio per curiosità. Sì. Quanto prendo? No, quella è l'ultima delle domande. No, noleggi, tra virgolette, quella cosa qua e magari poi la lasci al punto vendita, o è una cosa in una specie di comodato che poi ti riporti indietro? Bravo, un comodato d'uso noleggio, quindi alla fine le scenografie poi ci si accorge. Le fai scegliere quindi? Sì, sì. Cioè, insomma, esatto. Fai una proposta, una specie di catalogo, immagino. Ti faccio una proposta con un bozzetto, perché sono tutti pezzi unici di solito. Infatti, come se fossi un po' un artista della vetrina. Esatto, ok. Un artista di strada. Quindi hai un magazzino tuo? Ho un magazzino tuo. Piccolo magazzino. Piccolo, perché poi i materiali se li uso due o tre volte e poi anche io li butto via. Beh certo, perché poi si consumano. Si accumulano. E è un ruolo un po' particolare, nel senso che ci vuole creatività, è vero, manualità e anche marketing, gusto e anche marketing, sì, certo, perché devi fargli vendere la roba, perché sennò certo non cioè quello che quindi non è solo vendere. Non è solo estetica ma anche efficacia, anche funzionalità, esatto, anche funzionalità. E senza fare nomi, però, qual è l'ambito in cui ti senti più affine? Sicuramente avrai una predilezione, un gusto tuo. Guarda, infatti ripeto, senza fare nomi, per non escludere o insomma mettere nessuno in primo o secondo piano. Dico il settore merceologico, esatto. Guarda, a me piace come molto. Proprio passione personale. Sì, l'ottica, quindi negozi di ottica, occhiali e oreficeria. Quindi okay, sono due negozi che ovviamente comunque hanno bisogno. Pezzi piccoli. Pezzi piccoli in questo caso, non disdegnando ovviamente quando mi chiamano per l'abbigliamento, non gli dico no, infatti, guarda, come dicevo prima, non lo prendo il lavoro, non no, glielo no, no. Mai. Esatto, come dicevo assolutamente prima, è proprio un gusto personale, come ognuno di noi ha. Invece al tuo fianco, Monica, cosa fai di bello tu, Monica? Lavoro in un'azienda che produce valvole. Ok, con che ruolo? Ma quelle del cuore? Come? Sono quelle del cuore, non l'hai mai detto. E che ruolo hai? C'è il ruolo montaggio, anche confezionamento e anche controllo la qualità. Ah, montaggio, confezionamento, controllo qualità. Insomma, delle buone responsabilità anche per te. Esatto. Meno creativo di Massimiliano, però più concreto, ecco, dai. Più concreto. Avete anche delle passioni, magari qualcosa in comune che condividete, al di là dell'amore? Beh, il ballo penso che vi piace? Il ballo ci piace, vero? Sì. Il ballo vi piace? Poi, vabbè, giocare anche a beach volley, non so. Ma va. Sì, e dove sì. Si gioca a beach volley? Che allora, sono tutti chiusi i campi. Allora, guarda, fino a 2 mesi fa ovviamente sul lago di Garda, a Desenzano, ci sono i campi. Ci sono i campi? Sì, ci sono i campi all'aperto, insomma, quindi nella zona di Desenzano, Lugana, Sirmione. E poi, siccome io lavoro a Milano, prettamente, anche se sono di Brescia, certo, lavorando molto a Milano, là hanno fatto i campi chiusi, quindi in realtà l'indoor, ci vero, sono vero, i gonfiabili l'indoor, con addirittura la come, sabbia riscaldata. Come la neve artificiale, esatto. Sì, hanno la sabbia riscaldata sotto e quindi non ti freddi neanche i piedi, neanche bisogno di mettere. Bello il beach volley, peccato che non sia mai esploso sì, dal punto di vista italiano, adesso lo è saprai. No, esatto, lo so, ma anche proprio come sport, non è mai, comunque, nonostante l'estate, non è mai diventato di categoria. A Milano, lo saprai meglio di me in questo momento, sta andando fortissimo il padel, si chiama esatto, di moda. Dicono che anche tanti VIP, tanti ex calciatori lo stanno praticando. Sì, non so, forse dalla Spagna, non mi ricordo dove è arrivato, però sì, la moda del momento è questo padel. Vuoi riassumere un attimino come funziona? Quello del calcio, stai parlando del bici calcio, no? Bici calcio. No, beh, cioè, no, il padel è quello, quel misto tra racchettoni, tennis, che anche quello si fa però indoor, e la pelota, quelle cose. Sì, lì, una specie di pelota che invece di avere il cono, sì, c'è la racchetta. Sì, sì, infatti anche d'estate comunque nei campi di Rimini eccetera lì lo usano. Sì. Niente, si usa queste racchette, la rete è molto più bassa e sembra una specie di tennis fondamentalmente, esatto, quello che può essere a differenza del beach volley. Sì, una sorta, esatto, racchettoni al chiuso in sostanza, esatto, però tirano di quelle sberle che insomma sono picchiatori. Sì, sono dei gran bei picchiatori. Va bene ragazzi, volete mandare un messaggio, salutare qualcuno, dire qualcosa? Allora io saluto tutti, mi sto divertendo moltissimo qui al convento e tornerò sicuramente per Halloween, perché insomma abbiamo visto che c'è una bella programmazione. Bene, bene. Monica? Anch'io saluto tutti, di sicuro ritorniamo qua. Un bacio, un abbraccio. No, oh, bene, bene, vedi come sono più dolci le donne, più noi più duri. Più gentile, noi siamo più duri. Va bene, diretti, vi abbracciamo anche noi. Grazie e a te. Con grande affetto, e vi aspettiamo allora alle prossime settimane e ai prossimi eventi convento. Grazie ragazzi. Grazie a voi, ciao. Ciao.